Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buongiorno, buona domenica a tutti. Che meraviglia, il sole, il caldo, la pelle che si riscalda e che diventa bruna. Tutto sto sudore. E allora, sudore, io non sudo. Sudo poco. Anzi, a parte quando ho le scalmane, ovviamente, della mia menopausa. Menopausa, si vede con meno pause. Ma parliamo di notizie salienti invece che di altre cose. Allora, una notizia fantastica, vorrei aprire con notizia più fantastica veramente. Fantastica. Ci hanno scritto perché fantastica. In tanti, sempre, sì. Per diversi mesi. Grazie che ci scrivete. Che volevano che li tenessimo al corrente e che sensibilizzassimo l'opinione pubblica sul caso di quel cane in Calabria che hanno chiamato Angelo, che è stato seviziato, torturato, ucciso a badilate, appeso, impiccato, il tutto ripreso da quattro deficienti che poi l'hanno postato sui social. Ebbene sì. Quindi c'è stata la sentenza, finalmente c'è stata la sentenza e quindi questi quattro ragazzi di cui dunque si chiamano Giuseppe Liparoto, Nicola Sfusaro, Francesco e Luca Bonanata. Sono stati condannati a 16 mesi di reclusione, che poi in realtà non passeranno in carcere perché sono incensurati e quindi sono già a piede libero. Comunque c'è da dire che sono stati condannati al massimo della pena ottenibile, esatto, con le leggi che esatto. ci sono attorno. Infatti l'avvocato Rossella Nigro dice è stata una pena esemplare perché è il massimo che si poteva ottenere per come è fatta la legge. Allora modifichiamo le leggi perché secondo me la pena è stata veramente troppo poca. Io sto lavorando per questo, per modificare brava, queste leggi con brava, la grande perché una Susanna volta che Chiesa. C'è un delitto del genere non puoi dire vabbè allora ti vai a fare sempre, perché poi alla fine si è ridotto il tutto a che cosa? A 6 mesi di volontariato da fare in canile. L'altra buona notizia è che loro dovranno versare per un totale di 40.000 euro, però perché saranno per tutte 20 le associazioni, perché sono 2.000 euro per tutte e 20 le associazioni che si sono costituite parte civile, esattamente, quindi sono un bel po' di soldini almeno quello. Però insomma sui social imperversa questa cosa, no è troppo poco, dovevano, cioè, quindi abbiamo probabilmente una sentenza buona e giusta perché ha fatto il massimo che poteva fare, però evidentemente la legge che c'è dietro non soddisfa, cioè un delitto del genere che è un delitto, è un crimine. L'avvocato difensore loro, perché è stato chiesto a Rossella, l'avvocatessa Rossella Nigro, come è andata un po' tutta la situazione, la sentenza, la causa, e è stato chiesto su che cosa si era basata per esempio la linea guida dei difensori di questi quattro ragazzi, perché è una curiosità alla quale cosa hanno risposto? Hanno risposto che delle linee seguite riguardo al fatto che i loro assistiti hanno solamente la quinta elementare, avendo vissuto in un ambito contadino dove si macellano maiali e agnelli, per loro uccidere un cane è stato come uccidere un qualunque altro animale. Ecco, quindi silenzio stampa da questo punto di vista, no, nel senso, capisci a me, quindi vuol dire che si può, no? Vuol dire che questi però ragazzi sono ignoranti. Aveva delle connotazioni, evidentemente, questo atto, che non ha nulla a che vedere con quello che avviene quando tu ammazzi un animale per mangiartelo o per fare altro. Perché questo loro l'hanno ripreso, cioè si sono divertiti, hanno goduto della sofferenza di questo animale, l'hanno filmato, l'hanno messo sui social per la loro popolarità. E infatti qualcuno dice: vabbè, ho capito, ma non è che poi adesso questi qua che sono già a piede libero per ritorsione prendono un altro cane, fanno la stessa cosa, ma questa volta ovviamente intelligentemente non si riprendono, lo mettono sui social. È un pensiero che purtroppo anch'io, ma c'è stato anche chi ha detto che lasciarli fargli fare volontariato per 6 mesi dentro un canile sarebbe come mettere un pedofilo per 6 mesi in un orfanotrofio. Pensiamoci. No, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Questi sono perché, incazzati, magari perché dentro la lì pedofilia può essere anche come si dice inquadrata in una non normale funzione insomma mentale, una disfunzione psichica molto grave dovuta a tutta una serie di fattori, mentre questa cosa qua non è per questi, non sono malati psichiatrici, questi sono intelligenti, sono persone a posto che però hanno fatto qualcosa. Oddio, che non andava a posto? Eh sì, a posto, non sono mica malati psichiatrici, ma no, ma non è gente che ha deciso di fare qualcosa che non che ma non occorre essere malato psichiatrico per fare una cazzata di questo tipo, basta appunto essere ignorante, superficiale, appunto, quindi sono in grado sensibile di capire quello che hanno fatto e quindi vanno lì a prestare servizio dentro un canile, tra l'altro sorvegliati da tutti i volontari. C'è anche chi ha chiesto se non era il caso di mandarli da psicologi o psichiatri, perché però... noi sappiamo benissimo che le sentenze americane oramai danno per scontato, cioè non si associa mai la violenza su un animale come quella loro così gratuita e cruenta, è molto vicina ad avere problemi che poi dopo si possono scatenare nell'ambito familiare, sì, problemi certo. psicologici e di aggressione. È predittiva di violenza anche contro le persone, ma una persona violenta non è necessariamente malata. Una persona può essere semplicemente violenta, no? Anzi, quando c'è la quando una persona viene dichiarata psichicamente non normale, questa è un'attenuante, no? Sì. La pena cambia, quindi da questo punto di vista secondo me è andata bene come vabbè andata. Diciamo che insomma con le leggi attuali, con tutto quello che c'è oggi, è una bella pena esemplare, se non altro. No, non è esemplare. Allora, per quanto mi riguarda non è esemplare, è esemplare la sentenza, perché la sentenza poteva fare, scusami, cosa ho detto io? La pena, ho sbagliato. No, dico esemplare la sentenza perché non si poteva fare di più. La pena no, è assolutamente no, non è commisurata. Io farei quello che loro hanno fatto. Come l'Olanda, che per chi fa il trattamento verso gli animali si fa 3 anni di carcere senza condizionale, senza poter pagare niente, perfetto. Si butta via la chiave. Basta, ti fai 3 anni di carcere, paghi... 3 anni della tua vita li hai buttati nel cesso con questa cosa. Esatto, e paghi fino a 17.000 euro di multa, di sanzione. Difatti l'Olanda è un paese molto avanti rispetto a noi, mi sto ispirando molto. Da diversi punti di vista, non solo da questo. Ma detto ciò... Non so, per esempio, mi piacerebbe sapere, ma in Olanda come funzionano i canili? Come i cani randaggi vengono presi, messi nei canili e soppressi subito? Adesso vado a verificare. Però guarda che in Olanda, per esempio, hanno praticamente sconfitto il randagismo, perché ci sono delle regole forse precise. Così perché anche in Inghilterra non c'è il randagismo, però che cosa succede ai cani randaggi? Vengono messi nei canili e tempo una settimana, se il proprietario non va a reclamarlo, vengono soppressi. Sono bravo pure io a risolvere il randagismo così. Andiamo a verificare allora cosa succede lì. Pure mia nonna senza sapere nulla. Detto ciò, break. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora parliamo di cacche. Vabbè, ma detto così, scusami. Scusate, al non plurale. Ho capito. I cani fanno la cacca. Di cacca. Quindi, Solo i cani? Non soltanto i cani. Vabbè, ecco, adesso tu stai scendendo un po' troppo. Insomma, stiamo sguazzando. Siamo animali anche noi, eh? Siamo animali e animalisti. Siamo bipedi. Vabbè. Quindi, perché parliamo di cacca? Perché effettivamente quanta gente giustamente si lamenta del fatto che le cacche dei cani vengano lasciate in giro. Per fortuna non ovunque e non dappertutto. Perché devo dire, ci sono la maggior parte dei proprietari oggi che hanno un cane che io vedo in giro per Milano o a Lecco, sono molto responsabili. Cioè la cacca la tirano su. Però qualche volta c'è qualche stronzo, per rimanere sempre in tema, stronzo bipede che non la tira su e io mi viene un moto dentro per dire, poi ci sono quelli che hanno il sacchettino dietro, lo vedi che è legato al guinzaglio per far vedere al vigile che ce l'hanno, ma in realtà poi il loro cane fa la cacca e non la tirano su. Stiamo parlando, poi la colpa non è mai dei cani, ovviamente dei loro accompagnatori a due zampe. Allora abbiamo chiamato un ospite a me molto cara, a te anche, a noi molto affezionata, che è Susanna Chiesa, che è la presidente di Freccia 45, che coordina anche l'ufficio legale di Freccia 45, che è un'associazione no profit. Susanna? Eccoci qua. Buongiorno, esatto. Susanna. Ciao, ciao a tutti. Senti, allora, noi siamo partiti da un articolo pubblicato su LifeGate. Sì, che dice che a Malnate, che è un comune italiano che sta a pochissimi chilometri dalla Svizzera, se il cane sporca per le strade e il proprietario non pulisce, arrivano multe salate con l'analisi del DNA. A me questa cosa mi ha molto incuriosito, perché mi immagino i vigili che già non fanno le multe, che vanno lì, raccolgono loro la cacca, le portano al laboratorio, li fanno fare una che poi avrà un costo anche queste cose, no? Sì, diciamo che lì ci sono 1400 cani che sono regolarmente censiti a Malnate, quindi sai, mi sembra tutto sotto controllo. Che dici tu, Susanna? Sì, praticamente loro fanno il test del DNA e grazie al patrimonio genetico del cane lo correlazionano con l'iscrizione all'anagrafe canina. E da lì risalgono al proprietario? Eh sì, e risalgono al proprietario. Naturalmente possono risalire nel caso in cui il cane sia iscritto all'anagrafe canina, però Malnate, in provincia di Varese, è molto... La Repubblica di Malnate è come un po' la Repubblica di Lecco, dove tutti i cani sono registrati, la maggior parte, insomma. Effettivamente esiste e altri comuni stanno seguendo questa via. Ah sì, eh. Ma addirittura, sì. Ci si, addirittura oltre il confine italiano, sembra che sia la Spagna che il Regno Unito stiano quasi pensando di attuare una cosa Hai capito. Questo tipo. Ma invece nella realtà dei fatti, in Italia, se io vedo uno che allunga il guinzaglio e fa il vago mentre il cagnolino dietro di qualunque taglia lascia giù... Deiezioni. Ma deiezioni è una brutta parola. Dillo le parole tue allora, Rosita. La cacca. Del cane. La cacca del cane quindi, per strada. La domanda è, io se vedo uno che fa così, a parte andare lì a dire, signora scusi, perché non la tira su, che 9 volte su 10 ti insultano, si indignano loro. E dici, mi fa male la schiena, no? Tu diresti così, per esempio. No, io sei scemo, io la tiro su sempre. Ma perché devi dare queste false no, notizie? No, lo so, però te dici sempre che ti fa male la schiena. No, io se dovesse capitare, perché non, a parte che vado da qualunque parte ma a prendere in genere, un fazzoletto. No? Tipo, amore, mi scarichi la macchina tutta quanta tu da solo che mi fa male la schiena. Ma l'uomo cose sei tu, sono mica certo. Io. Tu sei Mr. Infatti, Grey, ma quando io prendo, se tu vuoi essere Mr. Grey, caro, nelle mura di ma casa. Ma che Mr. Grey? Ma non mi paragonare, per favore, a certi personaggi fantomatici. Che... sì, ci sono. No, allora, che cosa può fare un cittadino comune quando vede un altro che lascia lì la cacca? Allora, esiste una legge anche per questa cosa, l'Italia è lo stato delle leggi, in questo caso... Non rispettate, suppongo. Non rispettate, esatto. Ecco. In questo caso è un'ordinanza ministeriale, era stata emanata nel 2013, è stata prorogata nel 2016, esattamente un anno fa, il 13 luglio 2016, quindi il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza che dice chiaramente che è fatto obbligo a chiunque abbia un cane in ambito urbano, ecco, è applicabile solamente in ambito urbano. Se il cane va nel bosco, nella passeggiata, no, se il parco sì, se è in ambito urbano, se è extraurbano no. Okay. Di raccogliere le feci, ma soprattutto molti non sanno, non solo questa ordinanza dice di raccoglierle, ma obbliga le persone ad avere con sé gli strumenti per la raccolta. Cioè, bel sacchettino di base. Esatto, perché tante persone ci hanno segnalato in diversi periodi di tempo, il vigile mi ha dato la multa, ma io in realtà il mio cane non stava sporcando. Certo, però certo. Devi avere con te lo strumento idoneo. Ma scusami, in quel caso ha preso la multa comunque? Sì. Sì, io sono nei casini. La sanzione è corretta. Ho capito, ma io per esempio non ho dietro, quando finisco i sacchettini, però uso i miei Kleenex per il naso e comunque prendo e tiro su uguale. Non fa niente. È giusto, la legge è uguale per tutti. Strumento idoneo, dovrai spiegare al vigile che il tuo strumento idoneo sono è il fazzoletto di carta. Ah vabbè, l'importante è che è qualcosa di idoneo per tirare sì, sulla cacca. Sì, okay, sì, okay. Sì. Io lo ritengo esatto. Poco idoneo, comunque fate voi. Madonna, meno male non fa il vigile, che palla al piede che c'ho in casa. Oggi mi piacerebbe, uscirei multi a tutto spiano, avanti. Madonna. Allora Rosita, fammi vedere il tuo strumento idoneo. Ah, quello sarebbe idoneo. Bella multina, gli faccia una bella quindi, multina. Quindi scusami, se io, ecco, allora... Chi è addetto a queste cose qui? I vigili, che non esistono esatto, quasi più. Polizia cioè, locale. Ma pure sì. Gli ausiliari del traffico, quelli che rompono le palle con le multe, con i parcheggi male, fanno solo quello? Perché poi di vigili ormai, ragazzi, non ce ne sono più manco mezzo in giro per città. Solitamente sono i vigili che danno le multe di questa cosa. Gli ausiliari solitamente si occupano dei parcheggi. Infatti quelli sono gli ausiliari di incassare. Sono ausiliari del traffico, sì, anche se qualcuno sì, li chiama sì, ausiliari sì. Di... A volte no, di sì, ma scusami Susanna, fammi capire, ma il vigile, non ho mai visto un vigile fare una multa a una persona. No, il quale fanno sempre, stiamo sempre parlando della Repubblica di Lecco, anche per le persone che non hanno gli strumenti idonei alla raccolta delle feci, eh? Io a Milano cioè, no, sì, la legge è così anche a Milano. Ho capito, ma hai non mai visto, li hai visti, ma non certo, vedo manco i vigili a non Milano, li vedo in parco, moto, cioè i vigili li vedo in moto, quando li chiami che hai bisogno non ci sono, non vengono per un cane. Ma dai, ma smetti. Ma te lo giuro. Vabbè, comunque, detto ciò, allora, visto che voglio approfittare di te, Susanna, sì. Ribadiamo un attimo, visto che iniziano la bella stagione, io vedo delle cose che a me fa e io vorrei capire che cosa posso fare, io sì. Cittadino comune, su tutti quegli imbecilli che legano il cane al guinzaglio, magari poi col collare e non con la pettorina, e lo trascinano di corsa in bicicletta mentre attraversano la città. Ecco, esatto, norme di comportamento, si chiamano appunto così. Anche in questo caso chi eleva la sanzione amministrativa è sempre la polizia locale, municipale, in questo caso anche si possono chiamare anche i carabinieri o la polizia stradale. La circolazione dei velocipedi, cioè le biciclette, io prendo una bicicletta, attacco il cane e vado in bicicletta. In questo caso si applica il codice della strada, così come il codice della strada si applica in nella maggior parte delle norme comportamentali riguardo al trasporto degli animali. Vi è un articolo chiaro, 182, è vietato ai ciclisti condurre animali, punto. Boh, no, quindi non si può fare. Che multa prendono? Le multe, il sistema sanzionatorio in Italia è un po' triste, comunque certo. In questo caso dei 25,99 euro. Vabbè, 100 capito. Euro, dai, 100 euro ci sono. Ma scusami, come le quantificano se darmi 25 oppure 90? Da quanto rantola il cane? So io. Comunque ragazzi, veramente, a me mi fanno incazzare queste cose. Allora, io che ne vedo diversi, sono, e adesso non mi fermerò più, sono molto... tentata di fermarmi, dire a queste persone guarda che non lo puoi fare, per il codice della strada è vietato, perché io adesso chiamo un vigile e ti faccio dare la multa. Posso così fare... come è vietato tra l'altro trasportare gli animali attaccati alle cinture, che molte persone non lo sanno, anzi c'è stato un periodo che queste cinture d'auto hanno avuto un enorme successo. Ma le ho comprate pure io, le cinture di sicurezza per i cani, perché io gli mettevo la pettorina e legavo la cintura di sicurezza, così se frenavo qualcosa il cane non schizzava davanti. Esatto, tantissimi hanno avuto successo tanti anni fa. E invece il codice della strada, in questo caso è l'articolo 169, vieta le cinture in auto per tutti gli animali. No, e perché? Perché non sono sicure. Ma non sono sicure, pertanto il codice della strada ha chiaramente ha decretato che il trasporto degli animali domestici, nel caso siano superiori a uno, devono essere in gabbie o contenitori. Sì. Il contenitore mi sembra il contenitore, sì, delle bacche. Questo è quello che dice il codice della strada. Vabbè. In altro caso, se il cane è solamente uno, si può lasciare libero in macchina, ma non deve essere attaccato alle classiche cinture di sicurezza dei cani. Strano. In questo caso si è espresso sempre il Ministero, dopo l'emanazione di questo articolo sul codice della strada, anche in questo caso il 13 luglio del 2016, quindi l'anno scorso il Ministero della Salute ha lavorato hanno detto abbiamo un po' di tempo che ci avanza, cosa facciamo? Cambiamo un po' di leggi riguardanti gli animali. Esatto. Bisognerebbe occuparsi di più. Comunque intanto Susanna, grazie mille di queste notizie, perché io per esempio la cintura di sicurezza ce l'ho addirittura attaccata in macchina, quella per i cani. Sì. Devo dire che avendo esperienza con i cani, quelle cinture lì effettivamente non salvaguardano la salute del cane. Come? Ma gli metti la pettorina, li leghi, se fai una frenata non lo fai cadere, non cade in avanti, perché tanto se lo metti dentro il kennel è shakerato uguale. No, molto meglio il kennel da quel punto di vista. Tra l'altro un'altra cosa, sì, quelle cinture lì non sono come le nostre che ti ancorano al sedile e quindi non ti permettono di muoverti. Nel caso in cui c'è un incidente c'è un forte strattone e le sollecitazioni che la colonna del cane subirebbe sono veramente troppo forti. La cosa migliore tra l'altro è mettere il cane nel trasportino, ma non nel portabagagli se possibile, ma sui sedili posteriori, perché la parte del portabagagli ha una resistenza agli urti ridotta rispetto invece all'abitacolo. Quindi se uno ci tampona... deve essere così, perché quello fa una specie di ammortizzatore in caso di incidente. Quindi quando qualcuno ti tampona, se succede qualcosa di grave, purtroppo la resistenza del bagagliaio è ridotta e quindi il cane verrebbe schiacciato. Se invece è all'interno dell'abitacolo ed è dove si siedono i passeggeri nei sedili posteriori, il cane è molto più protetto. Quindi per vostra informazione io aggiungo questo per esperienza. Sì. E se posso aggiungere un'altra cosa, visto che si avvicina l'estate, ricordiamoci che non bisogna lasciare il cane in auto. No, infatti, ma neanche con un dito di finestrino aperto, neanche perché muore. Neanche con il finestrino abbassato. E soprattutto dietro che c'è il vetro molto grande, lì fa molto caldo e l'aria condizionata anche in viaggio non arriva fino lì. Susanna, grazie mille, grazie Susanna Chiesa e noi ci sentiamo fra poco. Ciao, buona domenica. Ciao. Circolate, non mi create l'ingorgo. Via, circolare. Avanti, circolare. Venite avanti. Avanti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Oh, io sono contenta adesso di questo ospite che abbiamo oggi qui, perché quando tutte le volte che parliamo con lui si parte in un modo e si finisce in un per altro. Per favore, dobbiamo... Allora, l'intenzione è seria. Ci sarà presto un corso su mindfulness e cani. L'insegnante di questo corso è un mio caro amico, nonché docente della scuola Think Anche Dog. Anche un mio caro amico adesso. E adesso facciamo in modo che lui ci spieghi che cos'è questa cosa qua. Pronto? Pronto, buongiorno, ecco. Buongiorno a tutti. Allora, eccoci, stiamo parlando con Giuseppe Luscia. Esatto, eccomi, ciao. Ciao Beppe, sei contento? Ciao, ci sono anch'io fra di voi a fare queste sono interviste. Felice, non sono contento, sono proprio felice. Che do quella nota rosa, ecco, no? Quando ci riuniamo noi tre a parlare, andatevi ad ascoltare gli altri podcast, rimane negli annali di Radio 24, quindi speriamo che anche questa volta... È che l'intento è sempre serio, no? Sì, e non so cosa succede poi in mezzo. Ma guardate che era serio anche il finale dell'altra volta, non vorrei, adesso non vorrei divagare. No, ma non lo riprendiamo. Appunto. Ma cominciamo dall'inizio. Vai. Allora, vai. Mindfulness e cani. Allora, che cosa ci racconti a proposito di mindfulness e cani, Beppe? No, cioè, che so, cosa c'entrano i cani con la mindfulness? E che cos'è la mindfulness anche? Vogliamo partire da lì a cercare di capire che cos'è la mindfulness. Dai. E tocca parlare, insomma, della persona che ha un po' così coniato questo termine. È una traduzione da una parola in lingua pali, perché questo signore che si chiama John Kabat-Zinn è un biologo che ormai parecchi anni fa è andato a prendersi una delle pratiche, diciamo, della tradizione della meditazione buddista e ne ha fatto uno strumento per protocolli per la riduzione dello stress. Quindi quello per cui è noto questo signore è solo dei protocolli che hanno ereditato l'enorme esperienza legata alla meditazione, legata a queste forme di autocura che vengono dalle tradizioni buddiste, li ha incardinati in un protocollo che è diventato poi famoso e diffuso in tutto il mondo come appunto in Occidente. Esatto. Sì, perché poi la cosa strana di noi esseri umani è che facciamo poco riferimento oramai, soprattutto in Occidente, alla nostra personale esperienza. Cioè sai che oggi si parla tra l'altro di medicina personalizzata. No, aspetta, non ho capito, si fa poco? Si fa poco riferimento alla propria esperienza, cioè quello che ti può insegnare esatto. La tua esperienza, no? Oggi, esatto. Tu oggi parli di noi occidentali? Oggi peraltro sì, si fa riferimento alla medicina personalizzata, all'alimentazione personalizzata, quindi che cosa vuol dire? Che tu devi sviluppare la capacità di ascoltarti. Certo, no? E questo è proprio il centro, no? della infatti, pratica. Infatti, no, ma quello che volevo dire è che questa cosa qua della mindfulness è diventata nota quando la scienza ha detto sì, è vera. Cioè esatto. Poche persone hanno detto mi metto lì, guardo che effetto fa su me stesso, perché avrebbero osservato ovviamente maggiore gioia, minore sofferenza dovuta da stress. Beh, ma dice... magari non ne sapevano neanche niente, per quello non no, perché sai, spesso si tende a bollare la meditazione come qualcosa di esotico. Esatto. E invece occidentali scarma. Ultimamente invece, grazie al filone inaugurato da John Kabat-Zinn, in tutto il mondo oggi sappiamo scientificamente che questa cosa della meditazione mindfulness ha dei benefici molto molto forti. Esatto, secondo me è proprio questo, cioè noi occidentali ci poniamo nei confronti di queste pratiche che, ricordo, stanno in una tradizione che dura da 2500 anni, quindi insomma se sono arrivate fino ad oggi ci sarà qualcosa di vero ed importante. Però ci approcciamo a questo come una sorta di magia e devo dire che peraltro non è che io sia stato tanto diverso, nel senso che anch'io mi ci sono così approcciato con grande scetticismo e un po' la ragione... l'inizio di questo percorso, il fatto che io sono andato a cercarmi delle informazioni per capire meglio che cos'era la mindfulness è proprio per questo naturale scetticismo. E poi proprio il fatto di tornare a se stessi, cioè di usare se stessi come prima prova di alcune cose e in qualche modo essere così protagonisti di quello che facciamo su di noi, ha bisogno di una caratteristica che è quella alla base della capacità mindfulness, che è quella di ascoltarsi, di essere presenti nel momento a se stessi nel momento presente, perché questa è la mindfulness, cioè portare intenzionalmente l'attenzione al flusso dell'esperienza. E il passaggio con i cani, che loro sono in mindfulness naturalmente. Brava. Cioè... E ci sono successe due cose. La ragione per cui poi nel tempo ho provato a mettere insieme queste due cose sono due. La prima è che ho iniziato a trovare alcune parole, alcuni concetti, alcuni fenomeni che mi spiegavano, quando mi spiegavano la mindfulness, io li avevo già sentiti stando nel mondo dei cani. Quindi se si scoprono cose meravigliose, per esempio si scopre che noi che diciamo ci occupiamo di cani, occupandoci soprattutto della relazione col cane, abbiamo uno dei nostri pilastri, è il legame di attaccamento, no? Sappiamo come il legame di attaccamento è centrale nella relazione con il cane. Beh, se tu inizi a occuparti di mindfulness, scopri per esempio, grazie a degli studi di Daniel Siegel, che ci sono aree del cervello che si attivano in maniera omologa per le situazioni in cui sei in una condizione di legame di attaccamento sicuro e nella meditazione mindfulness. E questo, insomma, sembra non è assolutamente immediato, no? È come se questi due fenomeni, o almeno lo sono nel nostro cervello, siano collegati. Bellissimo. E l'educatore cinofilo che si nasconde dentro me dice: bene, allora questa cosa, questi due mondi sono vicini. Ma poi non solo, scopri che la mindfulness è per esempio molto utile per cercare di imparare a gestire le emozioni, però sappiamo anche che le emozioni, attraverso dei meccanismi di contagio, si passano fra le persone e con i cani. E allora la domanda che ti viene un po' naturale è: ma se io mi prendo cura di come sono capace di gestire le mie emozioni, non è che magari riesco ad avere anche cani più felici, cioè i miei compagni, vedi, cani? Perché oggi va molto di moda parlare di relazione col cane, no? Però pochi la capiscono fino in fondo. In relazione significa che effettivamente non c'è una vera netta linea di demarcazione tra noi e il cane. Quindi un aumento della tua consapevolezza in te stesso naturalmente fa cambiare tutta la relazione, compreso quindi anche come si sente il cane. Poi sappiamo che lo stress si comporta come un virus. Esatto. Se la meditazione riduce lo stress, evidentemente infettiamo con i nostri cani meno da questo punto di vista, cioè gli passiamo meno stress. Esatto. Ci sono un sacco di risvolti. Ci sono delle ormai migliaia di ricerche che testimoniano l'efficacia di una pratica mindfulness, che per esempio mettono in relazione la pratica mindfulness con un approccio empatico alle altre persone. Sì. Tutti noi ci stiamo a sbrodolare addosso di quanto è importante per le nostre relazioni essere empatici con gli altri, però poi a un certo punto bisogna anche capire come si fa a diventare più empatici. Esatto, come si sviluppa questa capacità, come se uno dovesse un po' andare in palestra, no? Vuole fare il bravo tennista, va anche in palestra. Come tutte le cose, uno deve imparare, deve mettersi a disposizione, deve aprirsi a accogliere. E questa è fuori un'altra cosa interessantissima, che possiamo, sempre cercando di stare così, con questo approccio scientifico, no? Scettico per principio, ci sono oggi delle ricerche che dicono che la pratica costante della mindfulness, della meditazione in generale, modifica come è fatto il nostro cervello. Cioè non è un allenamento solo, diciamo, come dire, so dove voglio arrivare, voglio mettermi in quello stato là e quindi lo conosco meglio e ci vado più in fretta e mi metto in uno stato mindful più facilmente. Non solo, perché se lo conosci ovviamente quella condizione probabilmente la raggiungi più facilmente, e questo è vero, ma il tuo cervello è più pronto per farlo, cioè si modifica ovviamente nel tempo. Queste sono ricerche che hanno indagato il cervello di persone che hanno più di 10.000 ore di meditazione, quindi stiamo parlando di monaci buddisti che fanno di questo la loro vita. Però è interessantissimo scoprire come ci sia proprio una modifica anche del cervello. Sì, a fronte anche di questo. E anche se la modifica non è così vasta, no, a livello neuroplastico, ma hanno individuato una modificazione cerebrale anche nelle persone che hanno seguito il semplice protocollo in 8 settimane MBSR, studiato e strutturato proprio da Jon Kabat-Zinn. Quello mio, quello che ho fatto io. Tu non l'hai fatto? Quando è che l'hai fatto? Non ti sei accorto, ma l'ho fatto. Sì, vabbè. Lo faccio tutti i giorni. Sapessi quanto mi metto mindfulness Giuseppe, Rosita fa tutti i giorni il protocollo di 8 settimane. Capisci? No, l'altra cosa interessantissima è quella che diceva Rosita poco fa. Cioè, dall'altra bisogna provare. Noi ci prepariamo per essere più ben, diciamo, predisposti alla relazione, ma il grandissimo collegamento che io ho trovato rappresentato in maniera meravigliosa in un libro che peraltro mi hai regalato tu, Angelo, che si chiama I guardiani dell'essere. Ah, vero. È l'effetto opposto, cioè il fatto che stare con un animale, con un cane in particolare, possa esserti di aiuto a cercare di assumere quella condizione mindfulness. Esatto. Sì, perché io senza sapere di libri, di cose, aver fatto il reset protocollo, mi sono appassionata a una vignetta che ci sono un uomo col suo cane che vanno a passeggio nel bosco e si vede il cane pensa esattamente quello che sta passeggiando col suo padrone in un bel bosco. L'uomo invece sta pensando al cellulare, alla macchina, al lavoro, esatto, alla segreteria. Cioè, e in quella vignetta era chiuso tutto questo. Ed è mente piena o pienamente attenta, mindful or mindful. Esatto. E allora, insomma, esatto, è arrivato purtroppo già il momento di salutare Giuseppe. Non abbiamo fatto a tempo, Giuseppe, no, neanche no, a dire quattro no, cazzate. Devo lasciare, devo, però non posso esimermi dalla situazione. Giusto, giusto, giusto. Ah, vai. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Kung Fu Sai Panda. Che io devo Rosita, io devo citare Kung Fu Panda. Non ci voglio credere. Cita. Giuro. In Kung Fu Panda c'è una scena dove il maestro, la tartarugona, il maestro dice: ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono, ed è per questo che lo chiamano presente. E qua c'è tutto, no? Perché, Rosita, cosa devi fare? Non stare come fa quell'uomo della vignetta, sempre concentrato su cosa ti è successo. E io non sto o concentrato. Cosa ti succederà, ma viverti il momento presente, magari. Ma io cane. Sono in piena mindfulness sempre, capisci? Non sgarro un attimo. Solo apparentemente. No, ma non dir cazzate, di la verità che sono sempre in mindfulness io. Va bene, comunque Giuseppe... Senti, Beppe, Giuseppe, te lo vuoi riprendere, scusami, Angelo, Giuseppe, vera? Cosa importante, Giuseppe tiene l'8 luglio una giornata in cui si partecipa con il proprio cane su mindfulness e cani. Per maggiori informazioni visitate il sito www.thinkdog.it. E comunque si vede, grazie, che voi guardate comunque Kung Fu Panda tutti e due, perché c'avete delle rotelle, senti, che non funzionano. Senti, per favore, Shalendano, fatevi anche un po' della bella addormentata nel bosco, così diventate dei compagni esemplari, porco mondo. E con lo questo lo siamo già da questo punto di vista, insomma, guarda, vorrei parlare con tua moglie e dire, allora Angelo mi dice di stringere perché non gli va l'argomento, non mi avete dato tempo di dire cazzate. No, perché non abbiamo tempo, ce lo dicono dalla regia, ma regia, grazie Giuseppe, ciao, a presto. Te le dirò tu per tu, arrivederci. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Ma stamattina sei fastidioso, sei dispettoso e fastidioso. Un po' dispettoso lo sono, sì, ti do ragione. Perché? Ma non lo so, mi viene così, cioè... Sarà la primavera, amore? No, l'arrivo dell'estate, sarà il fatto che sto... per fortuna il mio lavoro va pian piano ammorbidendosi, non ho... Ma molto pian piano, così, perché non ti vedo un'agenda mai. Così densa, insomma, quindi sono felice. Senti, agenda densa? Allora, ti volevo raccontare agenda di un densa. Articolo che è uscito sulla dance. Zampa.it. Agenda densa, dance. Guarda che sono stufa. Guarda che non ne posso, guarda, più. Oggi non mi, ne posso più. Mi perdonerai. Io tu? Non ho nemmeno fatto un cenno a Peter, che ha visto, non ha neanche visto un mio capello muoversi, e sapeva che pensavo, dai, a questo. Un pochino mi potete tollerare, dai, vabbè. Ma giusto un pochino, perché poi io ti pochino. Tollerò anche a casa, mica solo quest'oretta qui la domenica, sai. Santa Rosita Celentà. Grazie. E quindi dicevi? Dicevo che sulla zampa.it ho letto un articolo che mi ha colpito particolarmente, perché sull'annuario scolastico, questa cosa fantastica che fanno gli americani, che non so perché anche le scuole italiane non riprendono. Il famoso Facebook, esatto. Il vero Facebook di carta, quello che è l'annuario scolastico con tutto il libro delle facce di tutti gli studenti, delle foto di quella... tipo fototest di tutti gli studenti che sono passati per queste scuole. Infatti l'ho sempre trovata una cosa fantastica, ma quest'anno, nell'anno scolastico 2017, e precisamente alla Stafford High School a Fredericksburg negli Stati Uniti, a un certo punto appare pure la foto di un cane. Eh sì, ho letto. Del bellissimo. Cane Alfa. Il cane si chiama Alfa ed è un alert dog, perché il suo proprietario, che dunque si chiama, te lo ricordi come si chiama? Sì, Andrew Schalk. soffre di diabete, quindi questo cane che cosa fa? Avverte lui di quando stanno per arrivare le crisi ipoglicemiche. Il cane lo percepisce una mezz'oretta prima. Lo avvisa, lui tra l'altro dice: quante volte mi ha salvato la vita questo cane, il mio angelo custode, no? Sia di giorno che di notte. Esatto, sì. Quindi cosa succede? Se lo porta a scuola e nel momento in cui a lui sta per arrivare una crisi, il cane lo aiuta, quindi è necessario che il cane stia con lui. E allora dal momento che ha partecipato a tutte le lezioni scolastiche, esattamente come tutti gli altri studenti, nel Facebook di quell'anno è apparsa anche la foto di questo cane. Ma che cammino. Poi la cosa curiosa è che, sai che a fianco alle foto c'è tutto l'elenco con i nomi e cognomi delle persone, c'è scritto Alpha Schalk, Andrew Schalk, c'è scritto Sophia Alpha Schalk, cioè il cane ha un nome e un cognome. Ma addirittura lui, Andrew, il suo padroncino, gli ha fatto, la tessera scolastica al cane, cioè sai la tessera tipo le nostre, nostre credit cards, carte di credito, gli ha fatto la tessera con tanto di fotografia, dice che oramai questo cane è diventato la mascotte di tutta la scuola, è stracoccolato, adorato da tutti, quindi prendiamo esempio. Chissà, ragazzi, chissà che non migliori l'apprendimento di questi ragazzi in classe, io mi ci gioco la camicia, per non dire qualche altra giocati cosa, ecco. Qualcos'altro di... ecco, non volevo essere volgare, però sai, la pettera pienata così, la camicia da... con due gemelli attaccati, vabbè, ho capito, possiamo andare avanti, poi sono io quello fastidioso, capito? Ma scusa, ma io non sono fastidiosa, sto dicendo certo. Beh, allora insomma, la pettera pienata in questo modo con un terapeuta, uno psicoterapeuta che aveva con sé il suo golden retriever e si accorgeva che quando lui era in studio i suoi pazienti evolvevano più facilmente, quindi da lì sono partiti poi tutti gli studi che oggi ci dicono, sai, che stare con un cane ha tutti questi benefici e via dicendo. Che per esempio i cani nelle aziende migliorano la produttività, migliorano la socialità e via dicendo. Quindi secondo me anche in una classe quando c'è un cane migliora l'umore, quindi anche l'apprendimento e il rendimento scolastico dei ragazzi. Bene, benissimo, e ora passiamo alla nostra rubrica Piatti e Ciotole. Piatti e Ciotole. Oh, siamo sicuramente in linea con Mara. Ciao, buona domenica a tutti. Ciao Mara, come stai? Ciao. Bene, sono nel mio ufficio con Chris. Con il nuovo arrivato? Con il nuovo arrivato, amore. Che mangia vegetale. E com'è? È fantastico, è adorabile e mi sta aiutando a superare un momento difficile, visto che è mancato il mio primo cane. Sì, pensa che me l'ha detto Angelo, io poi sono rintronata, forse me l'avevi detto pure tu. Immagino, può essere. Dopo sì, quanti però... anni? 15 passati in salute, però devo dire in allegria, amore e salute. Quindi con anche l'aiuto dei tuoi piatti favolosi. Le tue ricette. Questo sicuramente, perché almeno da 8 anni Pepita mangiava vegetale. Vedi. Quindi penso di poterlo dire. Bene, benissimo. Allora, per oggi ci avresti preparato? Per oggi vi propongo un piatto molto nutriente. Che si può fare in anticipo e conservare in frigorifero per qualche giorno, quindi per le nostre vite, anche se le agende sono magari più rilassate. Ecco, ma per scusami, le vite... Mara, scusami se ti interrompo, ma mi hai fatto venire in mente al volo una cosa. Tutti i piatti che tu ci racconti, che ci insegni durante queste nostre domeniche assieme, se uno ne fa di tutte una quantità maggiore e le divide nelle quantità al peso che va dato al proprio cane, si possono mettere in surgelatore, tirarle fuori e darle poi nei giorni passati? Allora, sì, in linea di massima sì, sappiamo bene che è meglio magari mangiare cose non surgelate, però dobbiamo vivere tutti e quindi nella pratica spesso è difficile cucinare sempre e mangiare sempre cibo fresco, però è possibile farlo, la risposta è sì. Ok, perfetto, procedi. Allora, vi propongo l'insalata di quinoa e vi occorrono 400 g di quinoa, 800 ml d'acqua, una carota, 200 g di mais, 200 g di piselli, qualche foglia di lattuga, mezzo panetto di tofu scottato in acqua bollente, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e due cucchiai di prezzemolo tritato. Cuocere la quinoa a parte lasciandola un pochino al dente. Scottare la carota a dadini per pochi minuti, poi versare nella padella i piselli e mantenere le verdure croccanti. Mescolare la quinoa alle verdure. Scusa Mara, perché sì, ti sto seguendo attentamente. Dimmi. Ma i piselli e le carote li prendi freschi o prendi già quelli precotti? Le carote sicuramente fresche, i piselli se siamo in stagione è sempre meglio prenderli freschi, se no possiamo prendere quelli congelati che cuociono in pochi minuti, veramente in pochi minuti. Oppure un'altra valida alternativa sempre diciamo, un compromesso nella nostra vita pratica sono i legumi in barattolo di vetro. Okay. I legumi in barattolo di vetro sono un'ottima, un ottimo compromesso per chi non riesce, come però, spesso in barattoli di vetro. Sì, di vetro. Mm. Perché, diciamo, il barattolo di vetro ci dà delle garanzie maggiori. Se sono biologici, questi legumi spesso non hanno neanche sale o zuccheri aggiunti e quindi sono un'alternativa più sana, ecco, sicuramente più sana. E il mais è sempre quello in barattolo? Il mais è sempre quello in barattolo. Ok. Dunque, quindi mescolare la quinoa e le verdure, preparare a parte una salsa con il tofu, l'olio, il prezzemolo e l'acqua, quanto basta per ottenere una crema abbastanza liquida, in modo tale da condire la quinoa e le verdure. Questa insalata si può fare anche con il miglio, il riso, il farro e l'orzo, quindi con tanti altri cereali. Per il piatto umano possiamo decorarlo con dei ravanelli affettati in modo sottile. Per la ciotola veg, invece, per la ciotola dei nostri animali, possiamo aggiungere sempre una manciata di cereale soffiato che dà ai nostri amici animali la sensazione di qualcosa di più croccante, perché comunque hanno una necessità maggiore rispetto a noi di sgranocchiare. Quindi questa è un'accortezza che nel tempo ho avuto modo di verificare. Ecco, come al solito io non vedo l'ora di andare a mangiare. Adesso, appena avevamo Mara... già fame prima. No, adesso qua me la sono anche segnata ma non riuscivo a starle dietro. Adesso poi mi riascolterò con calma la trasmissione. Senti, grazie sì. Mara, noi ci vediamo anche domenica prossima. No? Ci sentiamo, voi. Anzi. Grazie a voi, alla prossima. Grazie ciao. Mara di Noia. Ciao, ciao. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Si corre a mangiare delle cose buone, fresche. Poi con l'estate a me piacciono le cose fresche, fresche, crude, pasta fredda. E ci vediamo tra esattamente una settimana. Ciao da Angelo Vaira e Rosita Celentano.